Nelle prime puntate della nostra trasmissione è già capitato di citare il backgammon. Questo gioco è uno dei più antichi al mondo e in virtù della sua diffusione nel mondo britannico è servito a studiosi come Taylor come pietra di paragone per confrontare altri giochi, come è successo nel caso del Pachisi e del Patolli, e anche per affrontare il discorso tra gioco d'azzardo e gioco d'abilità. Questa è una delle caratteristiche più interessanti di questo gioco. Per sua stessa natura, infatti, le due componenti, l'azzardo e l'abilità, cambiano di incidenza a seconda del numero di partite giocate. Inoltre, i due aspetti costituiscono due poli di un vivace e assai interessante dibattito sulla natura del gioco, che molto ci dice sulla natura dei giochi in generale. A seconda della percezione, del gusto e degli interessi di chi gioca, un determinato gioco può essere interpretato secondo alcune sue caratteristiche oppure altre. Il backgammon è un gioco di calcolo matematico e quindi approcciabile da un punto di vista più tecnico e strategico, ma è anche un gioco in cui la componente casuale, cioè il tiro di dadi, ha scatenato e può scatenare sfrenate pulsioni al rischio e all'azzardo. Radio 110 presenta Bim Bum Bale Giù, un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Benvenuti alla 17ª e terz'ultima puntata di Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo, su 110 Web Radio, la radio dell'Università degli Studi di Torino. Come avete sentito dall'introduzione, l'argomento di oggi è il backgammon, un gioco che per storie e caratteristiche porta con sé molti spunti di riflessione e anche di controversie. Per parlarcene più diffusamente abbiamo contattato Stefano Selvi, presidente del circolo di backgammon di Milano e membro del consiglio del circuito nazionale. Per cominciare abbiamo rivolto a Stefano la nostra domanda di rito, e cioè qual è la diffusione del gioco del backgammon in Italia e nel resto del mondo. La diffusione è poca, nel senso che ci sono tanti giocatori ma pochi praticanti, nel senso che parecchi conoscono il gioco ma pochissimi lo giocano. Sul circuito nazionale noi raccogliamo, facendo 7 tappe in giro per l'Italia, raccogliamo complessivamente circa 200-250 soci giocatori che fanno i tornei distinti in due categorie, champion e amateur. A livello nazionale però ci sarà qualche migliaio di giocatori che conosce il gioco, però non fa tornei e non si raggruppa in associazioni o in altre forme tipo circoli, club, eccetera eccetera. Questo è il motivo per cui non c'è ancora una federazione nazionale del backgammon, nel senso che una federazione si forma nel momento in cui in tutte le regioni ci sono dei circoli, dei club, delle associazioni che giocando fanno dei campionati o comunque adottano le stesse regole valide per tutti e quindi possono costituire una federazione. Bim Bum Bale Giù! Ci sono dei giocatori particolarmente bravi che partecipano a tornei internazionali e anche al campionato del mondo che si terrà a luglio e si tiene sempre a luglio a Monte Carlo. Un italiano l'ha vinto nel 79, dopodiché il nulla, anche se c'è sempre una buona partecipazione di giocatori italiani. A livello internazionale alcuni sono particolarmente conosciuti, però non si frequentano tornei che posso dire che si fanno in località esotiche o da altre parti. Noi facciamo tornei che si fanno in Europa, ma per esempio nel circuito americano nessuno va. Ah, ho capito. Perché è un po' complesso partecipare al circuito americano. Anche a Las Vegas, che è un bel torneo, pochi vanno, nessuno, insomma, dei giocatori italiani. Ho capito. Quello che ti volevo chiedere è quale nazione in questo momento tira di più nel backgammon al mondo? E quelli che sono molto forti come federazione sono i danesi. I danesi hanno una bella federazione, sono in tanti e sono molto appassionati. Stanno emergendo molto i giapponesi, gli americani sono un folto gruppo, poi ci sono a seguire, ci sono tedeschi, francesi, inglesi, non tanti, ma insomma è difficile dire, ci sono parecchi georgiani per esempio, che ci sono degli armeni che girano. Però probabilmente perché è loro tradizione, nel senso... Sì, nell'est Europa è un gioco parecchio diffuso, viene giocato con delle altre regole, però è molto diffuso. Bim Bum Bale Giù! Secondo una leggenda indiana, un saggio chiamato Quaflan inventò un gioco che raffigurava il corso di un anno intero. La scacchiera comprendeva un totale di 24 punti, corrispondenti alle 24 ore del giorno, mentre i 12 punti di ciascuna metà della scacchiera rappresentavano i mesi ed i segni dello zodiaco. I 30 gettoni erano i giorni del mese e due dadi erano il simbolo del giorno e della notte. La somma di 7 punti, desunta dalle facce opposte di un dado, indicava i giorni della settimana e contemporaneamente i pianeti, allora conosciuti del sistema solare. L'origine del backgammon viene comunemente fatta risalire a circa 5.000 anni fa, al gioco reale di Ur, ritrovato nella tomba di un re sumero durante gli scavi nell'antica città mesopotamica di Ur, nell'attuale Iraq. Una successiva scoperta però, realizzata durante gli scavi archeologici della città di Shar-i-Sokhta, sembra poter anticipare la data di nascita di circa 100-200 anni e trasferire il luogo di nascita nell'attuale Iran. È probabile che successive migrazioni ne abbiano permesso una diffusione estensiva sia verso occidente che verso oriente, favorendo la nascita di numerose varianti. Vista la sua antichissima origine, è facile comprendere come siano potute nascere col tempo anche numerose leggende sulla sua paternità. Una di queste attribuisce l'invenzione al re di Persia Ardashir Babakan, della dinastia dei Sasanidi, un'altra al già citato Quaflan. Una variante di nome Senet si doveva giocare anche nell'antico Egitto. Sono state trovate delle tavole risalenti al 1500 a.C. nella tomba di Tutankhamen, così come degli affreschi raffiguranti delle tavole simili a quella attuale. La diffusione della tavola, nelle sue diverse varianti, non si arresta e raggiunge la Grecia. Platone accenna alla popolarità di cui un gioco simile godeva tra i greci. Sofocle ne attribuisce l'invenzione a Palamede, che in tal modo passava il tempo durante il lungo assedio alla città di Troia. Un gioco costituito da una tavola e tre dadi si conquista un posto d'onore anche nell'antica Roma. Conosciuto come Ludus Duodecim Scriptorum, gioco delle 12 linee, successivamente prese il nome, probabilmente anche subendo delle modifiche, di Alea, cioè dado, o tabula. Le legioni romane permisero una certa diffusione del gioco, in Britannia era appunto conosciuto col nome di Tables, ma probabilmente esso seguì le sorti della caduta dell'impero, perdendo via via di popolarità. In Asia veniva giocata una versione chiamata Nard già prima del IX secolo, in Cina si diffuse col nome di Tsupu, in Giappone era invece chiamato Sugoroku. Una rinascita del gioco in Europa si ebbe durante le crociate, quando i soldati conobbero la versione del tavla dagli arabi. Nonostante i numerosi tentativi da parte della Chiesa di bandire il gioco perché ritenuto d'azzardo, la sua diffusione nel Medioevo fu tale che gli storici contano diverse varianti allora in voga, come la tavola reale in Italia, le tablas reales in Spagna, il tavli in Grecia, la tavla in Turchia, il trick track in Francia e anche in Italia, il backgammon o tables in Gran Bretagna, il puff in Germania, il vorchabi in Cecoslovacchia, lo swanliu in Cina e il golaka krida in India. Bisogna però attendere il 1743 con la pubblicazione del breve trattato Short Treatise on the Game of Backgammon ad opera di Edmund Hoyle per avere una prima organica codifica delle regole. Il dado del raddoppio invece fu inventato negli Stati Uniti solo nel 1928. Lasciamo la parola adesso a Stefano Selvi, che ci parla del rapporto tra fortuna e abilità nel gioco del backgammon, nel prossimo spezzone della nostra intervista. Il backgammon si può giocare in tanti modi, perché ci sono tante varianti, in Grecia, in Turchia ce ne sono differenti, ma sostanzialmente si gioca in due modi, o a punti, cioè sì. Si stabilisce una partita che può arrivare, che so, ai 7, ai 5, ai 3, agli 11, sempre punti dispari, e si gioca un match, il primo che arriva a fare quei punti vince, sì. Oppure si giocano delle partite libere, in cui si stabilisce una posta iniziale, e ogni punto vale quella posta. Gli americani, che sono i soliti furbacchioni, nel 1920, giù di lì, sì, hanno introdotto una componente che ha rivoluzionato completamente il gioco, che è il dado del raddoppio. Sì. Il dado del raddoppio, l'avranno visto tutti, è un dado con, ovviamente con sei facce, che va da 2 a 64. Cioè ogni faccia raddoppia la faccia precedente, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Questo dado costituisce l'elemento più importante nel backgammon moderno, nel senso che non è tanto più la strategia o la tattica che viene utilizzata in una partita, ma è la scommessa che viene fatta se quella partita io, che all'inizio della partita questo dado sta in mezzo, no? Sì. Cioè la posta è 1, sì, diciamo un punto. Io a un certo punto della partita o il mio avversario decide che quella partita la può vincere a due punti, cioè per lui è conveniente raddoppiare la posta. Sì. Se l'avversario accetta il dado, la partita si gioca al doppio della posta, cioè due punti. A quel punto, chi è il possessore del dado, siccome il gioco può variare, ci possono essere dei ribaltamenti di fronte, può offrire a sua volta all'altro la posta a 4. Sì, se lo accetta, la posta è 4 punti, per quello che quindi è un gioco a rilancio. È un gioco a rilancio, è una scommessa. Sì, no? Chiaramente. Ovviamente uno vede la posizione, fa dei conteggi, poi ci sono alcuni che applicano determinate tabelle, altri che ne applicano altre, alcuni applicano formule di calcolo di un tipo, altri di un altro, e si va avanti così. Bim bum bale giù! Ma qual è stato, non so se abbiamo già risposto a questa domanda, volevo vedere se si poteva entrare un po' più in merito, quali sono stati gli effetti dell'introduzione del dado del raddoppio nel concreto? Cioè qual è stata la grande innovazione? Dunque, è sempre stato un gioco molto di nicchia, il backgammon. Sì. No? Lo giocavano, nell'antichità lo giocavano tutti, nell'Europa dell'Est lo giocano tutti, in Turchia lo giocano come giochiamo noi o giocavamo noi a scopa nei bar. Sì. Qualche tempo fa. L'introduzione del dado del raddoppio ha spalancato le porte all'azzardo, sì, al rischio, alla scommessa. Allora, c'è da spiegare una cosa. È un gioco in cui le pedine devono fare un giro, sì, entrare nella propria casa e, che questo gioco è diviso in 4 settori, per capirci. Sì, sì. La propria casa è la casa dalla quale queste pedine usciranno dal gioco e vengono tolte. Vince la partita chi toglie per primo tutte le pedine. Se io tolgo tutte le mie pedine prima che l'altro ne abbia tolta una, si dice gammon, cioè certo, io vinco il doppio della posta. Sì. Se tolgo tutte le mie pedine e l'altro ne ha ancora una o più di una nella mia casa, si dice backgammon, cioè vinco 3 volte la posta. L'introduzione del dado del raddoppio ha spalancato ovviamente le porte a tutta un'altra serie di considerazioni, cioè supponiamo di giocare una posta di un euro. Sì. No? Il punto di questa partita vale un euro. Sì. Entriamo nell'azzardo, non lo si può trascurare, è una parte integrante di questo gioco. Certo. Se io do il dado del raddoppio, do il doppio all'altro, l'altro lo accetta, io vinco gammon, non vinco solo il doppio, vinco 4 euro. Certo. Ci siamo? Sì. Cioè se la vincessi doppia, cioè solo col dado a 2, vincerei 2 euro. Essendoci stato il gammon, io vinco 4 euro. Se gli faccio backgammon, ne vinco 6. Ora, si capisce che questa cosa qua ha veramente rivoluzionato la filosofia di questo gioco, che infatti è stato ed è tuttora ostracizzato da tutti, nel senso che compare come gioco nei giochi proibiti. Non so se sì, perché presente. Uno magari ci si può rovinare giocando a backgammon. Esattamente, no? Perché confidando nella fortuna, sì, penso che questo qua è un gioco di fortuna, viene regolarmente stennato se certo, prova a giocare con uno bravo. Sì. Ora, noi sappiamo che questo è un gioco che ha questa componente, però lo cerchiamo di imbrigliarlo facendo un campionato nazionale con un torneo dove appunto si giocano, cioè una quota di iscrizione, però sì, si giocano delle partite a punti, sì, per cui tu non vinci il montepremi costituito dalle iscrizioni di tutti, però giochi a punti, non giochi a soldi, okay, ci siamo? Sì, sì, sì. E così si fa nei tornei internazionali e sì, in tutti gli altri tornei che ci sono, perché noi cerchiamo appunto, sì, estendosi anche, noi siamo iscritti, per poter fare questa cosa siamo iscritti alla WISP. Sì, cos'è la WISP? Che poi, la WISP è l'Unione Italiana Sport per Tutti. Ah, ok. Che è l'associazione italiana degli sport dilettantistici, perché nessuno di noi è un professionista e quindi diamo una connotazione sportiva, cioè nel senso che poi vengono analizzate le partite, vengono filmate, vengono sbobinate, vengono messe sul computer, c'è un responso e stiamo cercando di dare un rating nazionale a tutti i giocatori che partecipano appunto a queste partite, sì, dei tornei. Quindi si sta cercando di dare una dimensione, diciamo, istituzionalizzata a questo gioco. Sì, la speranza sarebbe questa, però siamo, cioè, voglio dire, c'è ancora molto lavoro da fare. Bim bum bale giù! Il backgammon è un gioco per due persone. Si utilizza una tavola su cui sono disegnati 24 triangoli, chiamati punte. I triangoli a colori alterni sono raggruppati in 4 quadranti, composti da 6 punte ognuno. I quadranti sono chiamati tavola interna o casa e tavola esterna. Le tavole interne e quelle esterne sono separate, al centro della tavola, da una striscia chiamata bar. Per ciascun giocatore le punte sono numerate a partire dalla propria tavola interna. Il punto più lontano per ogni giocatore è quindi il 24, che equivale alla punta 1 dell'avversario. Ciascun giocatore possiede 15 pedine di un proprio colore. Entrambi i giocatori possiedono una coppia di dadi, un dado cubo del raddoppio, doubling cube, con i numeri 2, 4, 8, 16, 32 e 64 riportati sulle facce, è utilizzato per tener traccia della puntata corrente e per aumentarla durante lo svolgimento della partita. Lo scopo del gioco per ogni giocatore è quello di portare tutte le proprie pedine nella propria casa e successivamente di portarle fuori, bear off. Vince il giocatore che ci riesce per primo. Per iniziare la partita, ogni giocatore lancia un singolo dado. Chi ha ottenuto il numero più alto parte per primo. I numeri ottenuti con i dadi indicano di quanti punti, pips, il giocatore deve muovere le proprie pedine. Le pedine devono sempre essere mosse in avanti, verso le punte corrispondenti a numeri più bassi. Le regole per il movimento delle pedine sono le seguenti. Una pedina può essere mossa solo su una punta aperta, ovvero una punta che non sia occupata da due o più pedine avversarie. I numeri sui due dadi costituiscono due mosse separate. Un giocatore che ottiene due numeri uguali muove il doppio delle mosse. Un giocatore deve utilizzare entrambi i numeri che ottiene, o 4 se ha ottenuto un doppio, ammesso che questo sia possibile. Una singola pedina, qualsiasi sia il colore, che occupi da sola un punto è detta scoperta. Se una pedina finisce su una pedina scoperta dell'avversario, quest'ultima viene mangiata o colpita, hit, e posta sul bar. Ogni volta che un giocatore ha una o più pedine sul bar, è obbligato come prima mossa a farle rientrare nella tavola interna dell'avversario, prelevandola dal bar e ponendola su una punta aperta, il cui numero corrisponde a uno dei due dadi lanciati. Se nessun punto è aperto, il giocatore perde il suo turno. Se un giocatore può sfruttare solo parzialmente i numeri che ha ottenuto per il rientro, è obbligato a far rientrare più pedine possibili e deve rinunciare alle mosse rimanenti. Una volta che un giocatore ha portato tutte le sue 15 pedine sulla propria casa, può iniziare il bear off, cioè a portarle fuori dalla tavola. Un giocatore porta fuori una pedina tirando un numero corrispondente al punto in cui si trova la pedina e rimuovendo tale pedina dalla tavola. Per far uscire una qualsiasi pedina, un giocatore deve avere tutte le sue pedine ancora in gioco sulla sua tavola interna. Se una pedina viene mangiata mentre è in corso il processo per portarle fuori, prima di riprendere tale processo la pedina mangiata deve essere riportata sulla propria tavola interna. Il primo giocatore che porta fuori tutte e 15 le pedine vince la partita. Abbiamo già parlato del dado del raddoppio, di gammon e backgammon. Adesso torniamo alla nostra chiacchierata con Stefano Selvi. Parliamo del rapporto tra il gioco del backgammon e il poker e del gioco del backgammon con gli scacchi e il go. Il backgammon mi sta facendo venire, cioè questa versione del backgammon, la versione d'azzardo, che per me è anche abbastanza nuova, mi sta facendo venire in mente il poker, soprattutto perché volevo chiederti, in Italia la dimensione dell'azzardo è una dimensione che suscita molto fascino, per cui un gioco come il Texas Hold'em ha creato una schiera di accoliti pazzesca in pochissimo tempo, e volevo chiederti qual è il rapporto del giocatore, per quanti pochi ce ne siano in Italia, il giocatore di backgammon con la dimensione dell'azzardo, se il backgammon sta, cioè se il backgammon sta caricando su, diciamo così, appassionati per la sua dimensione di azzardo oppure per il gioco che è in realtà. Dovrebbe farlo per il gioco che è in realtà, perché è un gioco divertentissimo. Sì. Per me è uno dei giochi, è il gioco più bello del mondo. Cioè, però o lo ami o lo odi, perché c'è questa componente di fortuna che può ribaltare una partita, ma è il suo bello. Però sì. In Italia c'è una grandissima ipocrisia, perché in Italia, con la copertura dell'AMS, che è la società dei monopoli di Stato, sì, che garantisce il gioco d'azzardo, eccetera, eccetera, si gioca a tutto. Cioè, si gioca con i gratta e vinci, si gioca, certo, al lotto, al super enalotto, al poker, che il poker è un gioco facilissimo, cioè coinvolge i giovani, ma è anche molto tecnico, perché uno deve pensare, deve studiare, deve fare anche lì calcoli di probabilità. Sì. Però è molto più giocato sulla costruzione del personaggio, non so se sì, sì, sì, sì. Sono, no, è molto coreografico, c'è, cioè, questo aspetto che il backgammon ha molto poco, perché è appunto un gioco in cui tu ti devi impegnare in un'altra misura, insomma, rispetto al poker. È meno facile del poker. Sì. Per cui noi combattiamo, ma siamo degli eterni perdenti, perché chi si affaccia al backgammon è affascinato dal gioco, da questa cosa, però poi capisce che la sua semplicità è apparente, perché dietro c'è tutta un'altra serie di cose che deve fare, che probabilmente c'è anche col poker, però il poker è molto più immediato, è più veloce, tu ti siedi a un tavolo a poker e un'ora hai già chiuso il tavolo, due sì. ore, tre ore. Se fai un torneo ci metti due giorni, perché cioè devi giocare con questo, devi fare l'altro turno, devi aspettare il giorno dopo. Per noi è un momento anche di convivialità, perché poi siamo amici, per cui certo. tutta Italia, quando giriamo, ci troviamo, è un'altra cosa, insomma, no? Non c'è una rivalità così o una costruzione sì. di personaggi come c'è nel poker. In bomba, giù! Gli scacchi sono un gioco di previsione di mosse. Quante mosse tu puoi prevedere in più dell'avversario sulla determinata mossa che lui va a fare, per cui conoscendo tutte le varianti anche alle aperture che vengono fatte, sei più forte, sì. vinci. Attenzione, io prima giocavo a scacchi, sì. e non ero molto bravo, ho conosciuto anche dei maestri che si sono poi dedicati al backgammon, come dire, i grandi giocatori di scacchi sono pazzi. Beh, è vero. Sono molto borderline. Sì. Se non sono pazzi del tutto come Fischer o anche Spassky, sono molto borderline, perché hanno una mente diversa. Sì. Sono dei geni, ma sono dei folli. E comunque il gioco degli scacchi è molto più complesso e di studio, nel senso che tu devi andare poi a vedere le varie partite, bla bla bla bla bla, che cosa sì. hanno fatto nella tale variante, eccetera. Il Go è un gioco straordinario per strategia, nel senso che il Go lo insegnavano anche i samurai, a queste cose qua, ma è tutta un'altra cosa, cioè non hai una componente in entrambi i giochi, non hai una componente di fortuna. No, quello no, assolutamente. Quindi il backgammon si colloca, diciamo, da un'altra parte rispetto a questi giochi. Conserva una dimensione di strategia, ha una dimensione di calcolo. Per i giovani sarebbe straordinario, perché ti spalanca la mente. Il calcolo matematico è eccezionale in questo gioco. Però si colloca su un altro versante. Bim bum bale giù! Siamo tornati negli studi di Via Verdi 8. Questo è Bim bum bale giù, così gioca il mondo, il programma di giochi di 110 Web Radio. Vi presentiamo l'ultimo frammento della nostra chiacchierata con Stefano Selvi sul backgammon, nel quale Stefano ci parla dei prossimi appuntamenti del circuito nazionale e dello spirito di questi incontri. Torneremo subito dopo per le conclusioni e i contatti. La tappa del circuito prossimo sarà a Fontane Bianche, in provincia di Siracusa, dove ci sarà il torneo, e sì, perché noi cerchiamo anche di unire una micro vacanza in posti particolari. Certo. Cioè, adesso si gioca a Fontane Bianche, vicino a Siracusa, sì. che pare sia un posto, io non ci sono ancora andato, poi ci sarà un torneo quest'anno probabilmente a Positano, mentre prima si faceva a Sorrento, un torneo viene fatto a ottobre al castello di Carimate, che è vicino a Como, un altro torneo di solito lo facciamo in un castello in Toscana, al confine tra le province di Siena e Grosseto, una cosa incredibile, bellissima, e i playoff vengono fatti a Venezia, per cui poi c'è un torneo sulle Dolomiti a Cavalese, un altro a Torino, sì. dove c'è un circolo che si chiama Backgammon Point di Torino, che è del 1989, che c'è. Per cui cerchiamo di unire posti belli dove uno si può portare la famiglia, i figli, la gente visita, il marito o la moglie giocano, poi sì. si rincontrano, e facciamo queste cose qua per unire l'utile e il dilettevole. Bello, che infatti unisce molti aspetti così del piacere e del piacere dello stare insieme. Esatto, perché non siamo assatanati, nessuno è professionista, nessuno si gioca la casa, neanche meno la fitta, dobbiamo solo divertirci, insomma. Siamo giunti al momento delle conclusioni. In questa 17ª puntata vi abbiamo presentato le regole e la storia del backgammon e abbiamo parlato con Stefano Selvi, presidente del circolo Backgammon di Milano e consigliere del circuito nazionale, di un aspetto importante che contraddistingue il gioco, e cioè il suo rapporto con l'azzardo e l'impegno da parte di chi vorrebbe rendere il gioco una disciplina, anche per favorirne la diffusione e la conoscenza. Il backgammon ci concede un ottimo spunto di riflessione che svolgeremo nella prossima puntata, e cioè come un gioco porti con sé percezioni e modi d'uso differenti a seconda degli interessi di chi ci gioca. Per alcuni il backgammon è un bellissimo gioco di scalcolo e strategia, con una componente di caso che lo rende particolarmente eccitante e in qualche modo più completo rispetto ad altri giochi astratti, quali gli scacchi oppure il Go. Altri sono attratti dalla sua dimensione stocastica e quindi dall'azzardo e dalla scommessa. Il gioco non cambia, il modo in cui si gioca invece sì, e radicalmente. Inoltre, parlando con Stefano, abbiamo scoperto una realtà simile a quella del calcio balilla, e cioè quella di un gruppo di giocatori che cercano di associarsi e di istituzionalizzare un dato gioco, dandogli una forma, una struttura e un regolamento, anche per favorirne la diffusione. Il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ringraziamo Stefano Selvi, presidente del circolo milanese di backgammon e consigliere del circuito nazionale, per la sua gentile collaborazione, nonché Carlo alla parte tecnica. Ricordiamo i contatti: www.110.unito.it è il sito di 110 Web Radio, dove potrete trovare i podcast delle nostre puntate, e 110webradio@gmail.com, l'indirizzo email al quale contattarci. Per quanto riguarda il backgammon invece, i siti di riferimento sono www.backgammon.it, dove potete trovare il forum di riferimento per le discussioni inerenti al gioco, www.cnbackgammon.eu, il sito del circuito nazionale di cui vi abbiamo parlato, e www.backgammontorino.it, il club di riferimento per la città di Torino. Io sono Francesco, l'appuntamento con Bim Bum Bale Giù, Così Gioca il Mondo, è per mercoledì prossimo, sempre alle 20, sempre su 110 Web Radio. Buonasera. Avete ascoltato? Bim Bum Bale Giù! Un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Bale Giù, Così Gioca il Mondo.